Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Pensateci, io non ho il diritto di giudicare nessuno, ma sappiate che abbiamo di fronte dei serial killer della vita dei nostri figli fra 20 anni. L'accusa sui serial killer è chiaramente un'accusa falsa. Come sono false le firme con cui il Movimento 5 Stelle si è candidato in alcune parti d'Italia? E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per iniziare la settimana, per darvi un saggio, insomma, della temperatura, dei toni, del barometro, volete chiamare, del dibattito politico italiano in questo momento. Poi ne parleremo diffusamente questa sera a Effetto Notte, così come ci occuperemo, tra gli altri temi, anche di aperture anatemi, che fa anche rima, nel senso che da una parte c'è il Papa, la notizia, uno dei primi titoli un po' dappertutto, il Papa con questa svolta sull'aborto, che chiede ai preti di perdonare sempre le donne che abortiscono e i medici che praticano l'aborto, nel senso, prima è una cosa prevista giusto per gli ultimi, per il periodo del giubileo, invece oggi con questa lettera apostolica ai sacerdoti così ha detto. Ci occuperemo di questo. Invece, per quanto riguarda gli anatemi, il patriarca di Kirill, il capo praticamente della Chiesa ortodossa, che dice: le nozze gay sono come le leggi naziste. Per i vostri commenti, per le vostre osservazioni, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp, che è 349-238-6666. 349-238-6666. Prima, come sempre, di affrontare in particolare dei temi specifici, il riassunto della giornata. La campagna referendaria, se vince il no rimane tutto com'è, dice Renzi. Grillo commenta: abbiamo di fronte dei serial killer. La manovra economica, 530 milioni per le assunzioni al sud, incentivate anche le trasformazioni part time e l'apprendistato, verso modifiche di opzione donna e esodati. Aborto, svolta del Papa, i preti potranno per sempre assolvere le donne e i medici coinvolti. Francia, Sarkozy, grande sconfitto delle primarie del centrodestra, sorpresa stravince Fillon, e intanto è stato sventato un attentato, 7 gli arresti, il ministro Cazeneuve dice: mai la minaccia terroristica è stata così elevata sul nostro territorio. Stati Uniti, la squadra di Trump è quasi pronta, ma il neopresidente si prende una pausa di riflessione per il Thanksgiving e Obama blinda l'accordo sul nucleare con l'Iran prima dell'insediamento del tycoon. Brexit e Strasburgo chiede il rimborso dei fondi dati all'UKIP, il partito britannico euroscettico, utilizzati per attività politiche in violazione alle norme europee. Arte denuncia per il presidente ucraino Poroshenko per il mancato ritorno in Italia di 17 quadri del museo di Castelvecchio. L'ha presentata un avvocato veronese. Partiamo quindi dalla campagna referendaria, che si accende, come avete sentito, con toni forti da entrambi gli schieramenti. Renzi ha parlato a Radio 24 questa mattina, poi nell'appuntamento Matteo risponde. I 5 Stelle hanno risposto prima con Di Maio, poi con Grillo, e oggi il Financial Times, sia il Financial Times, il britannico Financial Times, che l'americano Wall Street Journal, hanno dedicato un articolo al referendum italiano e alle possibili conseguenze politiche ed economiche se prevalesse il no, segnalando entrambi possibili rischi per l'euro. Rincara la dose Goldman Sachs, che rivela difficoltà per le piccole banche in caso di vittoria del no. Il fronte del sì è fatto di serial killer, vogliono attentare alla vita dei nostri figli, il governo farà contratti direttamente con le multinazionali. Avete sentito prima Grillo, e poi a stretto giro risponde il presidente del Consiglio Renzi, che dice: il Movimento 5 Stelle è in difficoltà per l'inchiesta sulle firme false. Questo è un tranello, dice Renzi, per sviare l'attenzione. Poi questa sera, nella puntata registrata di Porta a Porta, presidente emerito Napolitano, che dice: quella sul referendum è diventata una sfida aberrante, e tra poco, come vi dicevo, torneremo a parlarne in modo più approfondito. A proposito di 5 Stelle, oggi c'è stata una nuova sfilata di testimoni in procura per l'inchiesta sulle firme false del movimento. Questa mattina sono stati ascoltati altri attivisti come testimoni per cercare di ricostruire che cosa accadde alla vigilia delle elezioni comunali di Palermo nell'aprile 2012. Solo nei prossimi giorni invece saranno ascoltati dai PM nella qualità di indagati i deputati Claudia Mannino e Riccardo Nuti, assieme ad altri accusati di aver partecipato alla falsificazione delle firme. Sono almeno 8 gli indagati. Occupiamoci adesso della manovra economica. Continua in Commissione Bilancio l'esame degli emendamenti, mentre arrivano i dettagli sul piano di decontribuzione per le assunzioni al Sud. Gli sgravi per le assunzioni al sud avranno una dote da 530 milioni gestiti dall'INPS. Lo prevede il provvedimento del Ministero del Lavoro depositato in Commissione Bilancio. E sempre in Commissione Bilancio via libera una norma sull'IVA. A partire da gennaio un'imposta al 5% sarà applicata anche a gondole, motoscafi e traghetti, oggi esentati dall'IVA. Fra le correzioni al vaglio della Commissione c'è anche una norma che, grazie a fondi INAIL, stanzia 100 milioni per nuove scuole. Un emendamento, questo, presentato dal Governo, che oggi ha depositato in Commissione un pacchetto di correzioni. Sul fronte pensioni il Governo si è detto anche aperto a modifiche per Opzione Donna ed esodati. In particolare, spiega il Vice Ministro all'Economia Enrico Morando, c'è la disponibilità a estendere l'istituto Opzione Donna sul pensionamento anticipato, correggendo anche in modo significativo le soluzioni vigenti. Correzioni in arrivo anche per l'ottava salvaguardia degli esodati, rispettando i conti pubblici, dice Morando, e consentendo allo stesso tempo l'accesso a soggetti che altrimenti resterebbero esclusi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora economia, questa volta europea, con l'intervento di Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea a Strasburgo. Ha detto Draghi, ha ribadito che la politica monetaria espansiva ha sostenuto la crescita, la ripresa dell'Eurozona continua e procede a un ritmo moderato ma stabile, dice, ha dimostrato una notevole resistenza agli sviluppi avversi e alle incertezze che derivano dall'ambiente globale. E proprio a Strasburgo, dove appunto ha parlato Mario Draghi, è tornata la paura terrorismo. Mai la minaccia è stata così elevata sul nostro territorio, ha detto il ministro dell'interno francese Cazeneuve, annunciando l'arresto di 7 jihadisti tra Strasburgo e Marsiglia. I sospetti aspettavano la consegna di una partita di armi e tra i possibili obiettivi anche il mercatino di Natale di Strasburgo, tra i più noti del paese. E in Francia ieri si è svolto il primo turno delle primarie della destra, vinte da François Fillon con ben 16 punti di scarto sull'ex primo ministro Juppé, e clamorosa poi la bocciatura di Nicolas Sarkozy. Più tardi poi ci collegheremo con Parigi anche per capire chi è questo nuovo leader del centrodestra, sconosciuto e più almeno fuori dai confini francesi. E poi la svolta del Papa sull'aborto: sono stati 900-950 milioni i fedeli che in tutto il mondo hanno varcato porte sante durante l'anno giubilare. Lo ha confermato oggi Monsignor Fisichella, ricordando che solo a Roma sono arrivati più di 21 milioni di pellegrini. Oggi è stata presentata la lettera apostolica del Papa a chiusura proprio del giubileo straordinario. Niente di quanto un peccatore pentito pone dinanzi alla misericordia di Dio può rimanere senza l'abbraccio del suo perdono, lo scrive il Papa nella lettera apostolica che chiude il giubileo straordinario. Davanti alle critiche dell'ala integralista, Francesco ribadisce la sua linea: fermarsi solo alla legge equivale a vanificare la misericordia. In questa logica, dunque, i preti manterranno per sempre la facoltà di assolvere dal peccato dell'aborto le donne e le altre persone coinvolte. Così ha però precisato Monsignor Rino Fisichella. Il Santo Padre ribadisce, a scanso di equivoci, che l'aborto è un peccato grave, perché pone fine a una vita innocente. Continueranno ad essere valide, fino a nuove disposizioni, anche le assoluzioni impartite dai lefreviani. Resteranno in servizio i missionari della misericordia. E perché tutti riflettano su come la povertà stia al cuore del Vangelo, sarà istituita una giornata mondiale dei poveri. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi torneremo su questa ulteriore apertura di Francesco, così come anche occupiamoci di questa dichiarazione da Mosca del patriarca Kirill, il capo della Chiesa ortodossa, che attacca i matrimoni gay e dice sono come l'apartheid in Sudafrica o le leggi naziste. Poi ce ne occuperemo. Stati Uniti invece, con la squadra di Trump, la squadra è quasi pronta, ma il neopresidente ha deciso di prendersi una pausa di riflessione per il Thanksgiving, cioè per il giorno del ringraziamento, e Obama intanto blinda, cioè cerca di rinforzare l'accordo sul nucleare fatto con l'Iran prima dell'insediamento di Trump, che ha detto che lo vorrebbe, ha fatto capire insomma che lo vorrebbe smantellare. Ancora all'estero, Siria, quasi 1 milione di persone vivono sotto assedio nel paese, lo ha denunciato il capo dell'ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite. I nuovi dati diffusi, che parlano di 974.080 persone coinvolte, segnano quindi un notevole aumento rispetto ai 486.700 di 6 mesi fa. Brexit, l'alleanza per la democrazia diretta in Europa, partito dominato da UKIP a Strasburgo, partito movimento inglese euroscettico, dovrà restituire quasi 173 milioni di euro di fondi europei utilizzati dal partito euroscettico per attività politiche nazionali in violazione alle norme europee, l'ha deciso l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo. E ora di nuovo in Italia con la cronaca. In Toscana c'è stato un nuovo decesso per meningite C, il sesto in un anno. A morire questa volta una donna di 45 anni non vaccinata. E più tardi sentiremo cosa dice a proposito dei vari casi che si stanno registrando in Toscana l'assessora regionale alla salute. Parliamo di arte, arte in ostaggio, una denuncia nei confronti del presidente della Repubblica Ucraina, Poroshenko, per il mancato ritorno in Italia di 17 quadri, tra cui opere di Tintoretto, Mantegna, Rubens, trafugati il 19 novembre 2015 al Museo di Castelvecchio, vicino Verona, e ritrovati nel maggio successivo in territorio ucraino. L'ha presentata questa denuncia un avvocato veronese, Guariente Guarienti, il legale ipotizza i reati di ricettazione e appropriazione indebita. Sentiamolo al microfono di Enza Loddo. Avevano assicurato che entro il 19 novembre, cioè due giorni fa, le opere sarebbero state restituite. Non è successo niente, io ho deciso a un certo punto di muovermi per smuovere un po' le acque, per vedere se una denuncia penale, ho fatto due denunce penali, una l'ho mandata ieri per posta al procuratore della Repubblica di Kiev e l'altra l'ho depositata questa mattina alla Procura della Repubblica di Verona, che potrebbe essere forse, ma è molto discutibile, competente a seconda della imputazione che il pubblico ministero dovesse ravvisare nel comportamento del Presidente della Repubblica Poroshenko, che fino adesso ha fatto solo promesse, non ne ha mai mantenuta nessuna. Il timore è che vogliano tenerli. Poteva dirlo, però, siccome sono state trovate da me nel mio stato, io ritengo di potermele tenere. C'è un precedente. Nel 2005, mi pare, erano stati rubati dei quadri in un museo olandese e sarebbero finiti in Ucraina e sarebbero ancora lì. E gli olandesi non sono mai riusciti a ottenere la restituzione. Parliamo anche di longevità. Nonostante la longevità sia aumentata costantemente nell'ultimo secolo, ovunque nel mondo e in più specie, in questa corsa i maschi sono in ritardo rispetto alle femmine. Lo conferma lo studio pubblicato sulla rivista dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti e realizzato da un gruppo di ricerca internazionale. Questa ricerca ha evidenziato che le ultime generazioni di esseri umani hanno goduto del più elevato aumento di speranza di vita nella storia dei primati, un risultato dovuto in parte ai progressi nel campo della medicina e della sanità pubblica, che hanno aumentato la probabilità di sopravvivenza dei neonati e ridotto i decessi per malattie infantili. Eppure i maschi, hanno osservato i ricercatori, sono ancora in ritardo rispetto alle femmine nella corsa alla longevità. Questo vale non solo per gli esseri umani, ma per tutti i primati in genere. E secondo uno degli autori di questa ricerca, Susan Albert della Duke University, lo svantaggio del maschio affonda le radici nell'evoluzione. Per chiudere il calcio, col futuro del Milan che sembra di nuovo in discussione dopo le ultime sorprendenti dichiarazioni di Berlusconi. Non un addio, quello no, ma di certo a vederlo in tribuna a San Siro per il derby in tanti hanno pensato almeno all'arrivederci, perché si sa bene che il legame tra Silvio Berlusconi e il suo Milan è qualcosa di indissolubile, ma insomma il 13 dicembre, giorno fissato per il passaggio del club ai nuovi proprietari cinesi, è ormai dietro l'angolo. E invece no, sarà stata la coreografia della curva rossonera a lui dedicata o l'orgoglio dei giovani timonati da Montella fin quasi a sfiorare il successo. Fatto sta che Silvio quasi quasi ci ripensa. Lo sbarco dei cinesi è ormai a un passo, l'affare è quasi chiuso. Per lui è già pronta la poltrona di presidente onorario. Ma sentite un po' come lo immagina quel ruolo, il patron del diavolo. Dovrei avere qualche possibilità di intervento. Per esempio su un sì o un no, sugli acquisti o sulle cessioni e anche sullo schema di gioco in campo. Insomma, un presidente onorario di un club di calcio che decide acquisti, cessioni e schemi di gioco. Altro che addio, hai voglia a dire arrivederci. Per ora Berlusconi resta al suo posto. E mai come oggi, il 13 dicembre, sembra davvero, davvero lontano. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Insomma, Berlusconi che vuol decidere anche della strategia di gioco, quindi un tecnico, non si capisce bene, insomma, comunque, diciamo, piuttosto particolare questa dichiarazione. Mentre voi continuate con le vostre riflessioni, vi ricordo c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri messaggi, così anche come il numero 349-238-6666. Allora, avete sentito il riassunto della giornata, tra poco cominciamo ad affrontare alcuni argomenti in particolare, tra cui anche questo dibattito sempre più acceso sul referendum. dice invece Andrea, siamo nel novembre del 2016, era proprio necessaria questa gita a spasso nel Medioevo col patriarca russo, dice Andrea a proposito di quello che ha detto effettivamente il capo della Chiesa ortodossa, che ha paragonato praticamente le nozze gay, quindi un atto d'amore voluto da persone dello stesso sesso, alle leggi naziste, quelle che hanno provocato uno dei massimi orrori della storia umana. Comunque, invece dice Gianni, voterei sì o no per un pacchetto di sigarette come la maggior parte della gente. Ah sì, Gianni, ne parleremo tra pochissimo. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi, quindi se volete essere aggiornati costantemente ogni sera non perdete Effetto Notte, all'inizio come sempre il riassunto della giornata per avere un quadro chiaro dei fatti principali e poi cominciamo quindi ad approfondire alcuni argomenti in particolare. Voi potete intervenire con la pagina Facebook di Effetto Notte oppure con i vostri messaggi al 349-238-6666. Mauro scrive per esempio: il problema di questo referendum non è tanto il contenuto ma il fatto che il voto vincola tutte le eventuali modifiche proposte. Tra pochissimo ci occuperemo appunto di politica, però intanto, se non avete acceso puntualmente alle 21, queste sono le notizie principali. Il Papa dice i preti potranno assolvere per sempre dal peccato dell'aborto sia le donne sia i medici. Intanto il patriarca Kirill dice i matrimoni gay sono come le leggi naziste. E poi la campagna del referendum si infiamma, ne parleremo tra pochissimo, avete sentito il botta e risposta tra Renzi e Grillo. Il monito di Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, servono delle riforme, intanto la crescita dell'Eurozona è lenta, moderata, ma insomma costante. Poi sventato un attentato in Francia, 7 jihadisti arrestati, gli obiettivi erano Parigi e Marsiglia. Cazeneuve, il ministro dell'interno, dice mai la minaccia è stata così alta in Francia. E poi una manovra, nella manovra 530 milioni per gli sgravi per le assunzioni al sud, tra i vari elementi, tra i vari punti principali della manovra che è in discussione, la legge di bilancio. E poi la squadra di Trump negli Stati Uniti è quasi pronta, però il neopresidente eletto si prende una pausa di riflessione per il giorno del ringraziamento, mentre Obama decide, prima dell'insediamento del tycoon, di blindare l'accordo nucleare con l'Iran. In Francia sempre grande sconfitta nelle primarie del centrodestra per Sarkozy, con la moglie Carla Bruni che dice a volte anche i migliori perdono, e andranno al ballottaggio di queste primarie del centrodestra Fillon e Juppé il prossimo fine settimana. E poi a Firenze una donna morta di meningite, non era vaccinata, era stata ricoverata in gravi condizioni, verifiche sui contatti che ha avuto, ci occuperemo anche di questo. Pensateci, io non ho il diritto di giudicare nessuno, ma sappiate che abbiamo di fronte dei serial killer della vita dei nostri figli fra 20 anni. L'accusa sui serial killer è chiaramente un'accusa falsa. Come sono false le firme con cui il Movimento 5 Stelle si è candidato in alcune parti d'Italia? Questo, come vi dicevo all'inizio, è il clima, insomma, di questo dibattito politico italiano sempre più incandescente, con il voto sul referendum che si avvicina sempre di più. Il 4 dicembre si vota, 14 giorni dal referendum, quindi che si infiamma di giorno in giorno. E poi Renzi oggi è stato questa mattina a Radio 24, ma anche nella diretta Matteo Risponde conferma: non sarò della partita nel caso in cui le cose vadano male, ma non sto aggrappato al mantenimento di una carriera. Insomma, ne parliamo con Barbara Fiammeri. Bentornata Barbara. Buonasera. Commentatrice politica del Sole 24 Ore, e quindi diciamo la tensione sale sempre di più. Hai sentito questo scambio di battute, poi faremo sentire altri passaggi. Intanto entrano in campo anche dei giornali come il Financial Times e come il Wall Street Journal con degli articoli piuttosto preoccupati nel caso vincesse il no. Addirittura il Financial Times dice che se vincesse il no l'Italia potrebbe persino uscire dall'euro. Non ti sembra un po' degli scenari un po' apocalittici, un po' troppo, Barbara? Allora, dico quello che insomma mi sembra abbastanza evidente, cioè sì, che ci sia una preoccupazione, direi che è normale e naturale che sia, perché non c'è dubbio che l'eventuale vittoria del no porterebbe a una maggiore incertezza politica, intendo, rispetto a una vittoria del sì che consentirebbe, diciamo, la prosecuzione dell'attuale governo e quindi il completamento della legislatura. Ma questo anche perché Renzi ha personalizzato questa campagna, no? E quindi dice, se aveva detto dall'inizio, se non passasse questa riforma io me ne vado, no? E quindi, diciamo, questa, allora, è un po' la chiave. La personalizzazione indubbiamente c'è stata, però a me sembra che un po', mi ricordo dei tempi anche quando c'era Berlusconi, no? Ormai siamo in una politica in cui vediamo anche lo scontro tra Grillo e Renzi, in cui è difficile che non ci sia una personalizzazione. Quindi è evidente che in un caso come questo, in cui praticamente c'è il Presidente del Consiglio e il Segretario del Partito Democratico da un lato e gli altri tutto dall'altro, la personalizzazione è un po' scontata, sia da una parte che dall'altra, intendo. Cioè, cosa dice Grillo? Da Renzi sostanzialmente del serial killer. Quindi la personalizzazione c'è, ed è indubbio che dall'esterno si veda, come dire, questa fibrillazione interna in Italia con grande preoccupazione, soprattutto perché ci sono forze che da parte del, appunto, della stampa anglosassone e non solo, vengono viste come forze antisistema, no? Come accade anche in altre parti, per cui, insomma, cioè, pensiamo soltanto che sia Grillo che Salvini vedono l'Unione Europea e anche l'euro un po' come il principio di tutti i mali. È evidente che se uno guarda dall'esterno e pensa che ci possa essere una sconfitta, appunto, del Presidente del Consiglio, dia una valutazione di preoccupazione, perché i mercati potrebbero entrare in subbuglio. E cosa significa questo? Significa che di fatto l'appeal dei nostri titoli di Stato verrebbe meno, che per vendere questi titoli di Stato, come sappiamo bene, dovremmo aumentare i tassi di interesse, e qui il famoso spread che, insomma, negegli anni passati abbiamo conosciuto anche qui con molta preoccupazione. È ovvio che poi, se ci fosse una risposta invece tranquillizzante, i mercati si regolerebbero di conseguenza, insomma. Faccio un esempio concreto: quando lo spread andò ai record, parlo della fine del governo Berlusconi, che poi portò alle dimissioni di Berlusconi, e arrivò il governo Monti, lo spread piano piano ricominciò a scendere e quindi, come dire, un'alternativa si trovò. Anche in questo caso ci troviamo in una situazione di grande preoccupazione, ma non è detto che questa preoccupazione poi debba essere mantenuta. Magari la risposta che arriverà dal fronte italiano, qualora il no vincesse, sarà una risposta tranquillizzante e i mercati ne prenderanno infatti, atto. Quindi non immaginiamo scenari apocalittici, ma tutto potrebbe essere. Io allora farei sentire ancora dei passaggi tra Grillo e Renzi. Sentiamo prima Grillo. Io se avessi vent'anni, non so come reagirei. Qui non siamo oltre la dittatura, perché fosse una dittatura e si facesse riconoscere un Pinochet, un generale con le medaglie che dice sono un dittatore, allora uno si organizza, diventa in clandestinità, fa il carbonaro, reagisce, fa delle cose. Qui siamo con un involucro di nulla, riempito di nulla, che sta svendendo il futuro di tuo figlio, di mio nipote, dei tuoi parenti a delle multinazionali che verranno qua e prenderanno qualsiasi cosa. Adesso invece Renzi, che dice io non sono tipo da governicchi, l'abbiamo sentito, è stato questa mattina a Radio 24 con Alessandro Milan e Oscar Giannino. Sembra un tipo che sta dentro il governicchio tecnichicchio, che cerchia di vivacchiare per mantenere agli uni e agli altri le poltrone. Cioè io ci sto finché posso cambiare le cose, poi qualcuno può dire che cambio bene, qualcuno che cambio male, però qui si poteva far cos'ha, tutte le cose legittime della politica, ma non c'è dubbio che da quando ci siamo noi in Italia stanno accadendo delle cose, non tutti sono d'accordo, che prima non accadevano. Adesso invece Di Maio, sempre il Movimento 5 Stelle, che dice se vincesse il no, allora il Movimento 5 Stelle chiederebbe subito il voto. Dovesse vincere il no, immagino che, come sta dicendo anche il Presidente del Consiglio, non ci sarà più questo governo, il governo Renzi, il Presidente della Repubblica sarà chiamato al suo ruolo e quindi a seguire l'evolversi delle vicende, e immagino chiederà alle forze politiche cosa vogliano fare, questo lo dice la Costituzione. Il Movimento 5 Stelle chiaramente dirà che vuole andare alle elezioni il prima possibile e ridare la parola al popolo italiano. Ora Renzi, sempre questa mattina a Radio 24, che dice: ma se vince il no non cambia nulla. Se vince il no, nella Costituzione italiana rimane tutto com'è, cioè rimangono il CNEL, il Parlamento più numeroso e più costoso del mondo, rimane l'unico paese al mondo che ha un sistema di doppia fiducia, cioè la Camera e il Senato danno la fiducia al governo, rimane un sistema totalmente arzigogolato e rimane il trionfo della burocrazia. Vorrei che questo fosse il tema, perché se per tutta la campagna elettorale, talvolta anche per colpa mia, diciamolo, il dibattito è soltanto su cosa faccio io dopo, secondo me non aiutiamo i cittadini a scegliere. La vera questione è: se vince il sì, si cambia, se vince il no, manteniamo la situazione di oggi. Ecco, però un po' l'ha messo, per colpa mia, dice, finisce che è la questione sul governo. Però Napolitano, che stasera sarà porta a porta, una puntata registrata, oltre a dire che il referendum è diventato un confronto aberrante, ha detto anche: non si vota sul governo. Non si vota né per questo governo né contro questo governo, e si vota quello che è scritto nella legge, e quello che è scritto nella legge è che appunto si dovranno drasticamente limitare i decreti legge. Questo, insomma, ritorna Napolitano a parlare, Barbara. Sì, ritorna a parlare e a portare un minimo di, come dire, di saggezza anche in questo dibattito, a mio parere, perché comunque riporta all'ordine rispetto a quelli che sono i grandi temi. E qui io ritorno sempre col dire che la memoria storica in questo paese è sempre troppo breve, perché anche gli ascoltatori dovrebbero ricordare che questa legislatura e la rielezione di Giorgio Napolitano nacque sull'idea di fare le riforme, il famoso discorso in cui Napolitano al Parlamento denunciò il Parlamento, attaccò, fece un intervento critico nei confronti dei parlamentari che lo avevano obbligato a essere rieletto, perché in mancanza di un accordo lui disse: ma fate queste riforme. Allora adesso dire che appunto sembra che qui è un'invenzione di Renzi, cioè non è un merito di Renzi, ecco, questo vorrei che fosse chiaro, no, non è un merito di Renzi aver deciso di fare le riforme, e non è neanche ovviamente un demerito, nel senso che queste le riforme le volevano tutti. Poi, come sempre, il gioco della politica fa sì che si diventa nemici, perché poi la morte dell'altro garantisce a me la sopravvivenza, e vale per ambedue i fronti, insomma. Assisteremo a un crescendo fino al 4 dicembre, sarà un crescendo di attacchi dall'una e dall'altra parte. Cosa poi questi attacchi produrranno, nel senso le macerie che poi il giorno dopo lasceranno sulla strada, lì veramente sarà preoccupante, perché bisogna vedere quello che succede. C'è anche la cosa: facciamo subito le elezioni. Anche questa è una finzione, cioè si sa benissimo che ci deve essere un pronunciamento della Corte Costituzionale sull'Italicum, si sa benissimo che l'Italicum è un sistema che è stato previsto soltanto per la Camera dei Deputati, dando quasi per scontata l'approvazione della riforma costituzionale. Quindi dire andiamo al voto anche qui non è molto credibile, e non è neanche credibile che un leader politico in pectore, qual è Di Maio, dica questa cosa. Cioè è probabile che Di Maio sappia molto bene che il Presidente della Repubblica sarà inevitabilmente obbligato a cercare di formare un nuovo governo, quantomeno per fare una legge fase elettorale di transizione che vada a Camera e Senato. Barbara, senti, per chiudere, perché siamo proprio in chiusurissima, Gianni dice, il messaggio di prima: voterei sì o no per un pacchetto di sigarette con la maggior parte della gente, quindi vuol dire, secondo la sua visione, che non si voterà tanto nel merito, che forse la gran parte delle persone ancora non ha capito, non gli è chiaro quali sono i contenuti, diventa appunto questa battaglia tra opposti schieramenti, dice alla fine è una questione di, se mi arriva un piccolo Roberta, vantaggio. Lo posso, no? Bacchettare un po' il nostro ascoltatore? Bacchettalo, allora. Io declino ogni responsabilità. Nel senso che, allora, abbiamo tutti la possibilità di andare in un qualunque sito, di qualunque coloritura politica, dal Fatto al Libero, passando per Repubblica, il Corriere e naturalmente il Sole 24 Ore. La televisione non fa altro che talk sul referendum. Cioè, se uno avesse 10 minuti da dedicare per informarsi un pochino sul contenuto della riforma io non credo che abbia difficoltà a trovare delle informazioni e anche a capire, perché i giornali, devo dire, stanno facendo un lavoro egregio, anche con tutte le opinioni del sì, tutte le opinioni del no, quindi insomma se uno vuole informarsi si informa, non diamo sempre la responsabilità agli altri delle nostre incapacità. Chiarissima Barbara, l'hai redarguito parecchio, poi anche qui effetto note, nei prossimi giorni ci manderemo delle schede con i motivi del sì e i motivi del no e poi ognuno deciderà in propria coscienza. Grazie Barbara Fiammeri, a presto. Grazie a voi, buonasera. Visto che il dibattito prosegue ne parleremo ancora lungamente. Invece adesso cambiamo argomento, parliamo di questo nuovo caso di meningite in Toscana. A causa del batterio, ieri all'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze è morta una donna di 46 anni. Negli ultimi due anni sono avuti ben 64 casi di meningite nella regione toscana, 13 dei quali letali. L'Istituto Superiore di Sanità rinnova quindi l'appello alla vaccinazione e così fa al microfono di Roberta Pellegatta l'assessora alla salute della regione toscana Stefania Saccardi. La signora non era vaccinata e quindi insomma viene da di nuovo rinnovare l'appello alla vaccinazione. Noi abbiamo prolungato la campagna straordinaria di vaccinazione contro il meningococco C fino al 31 marzo 2017 e quindi davvero invitiamo tutti a vaccinarsi, perché ricordo che nel 2016 sono decedute 6 persone tutte per il ceppo C e nel 2015 altrettante, 6 sono morte sempre per il ceppo C e una per il ceppo B, quindi insomma sono dati rilevanti a fronte di tra l'altro 38 casi di meningite notificati nel 2015 e 26 nel 2016. Quindi c'è da correre ai ripari appunto con le vaccinazioni, che ormai riguardano moltissimi bambini e giovani ma molto meno gli adulti. Sì, esatto, per quanto riguarda i nuovi nati, che naturalmente non rientrano nella campagna straordinaria di vaccinazione, a 24 mesi di età abbiamo una copertura del 91%, quindi una copertura molto alta, mentre su tutto il resto della popolazione noi abbiamo ad oggi vaccinato circa 715.000 persone. Ed è importante soprattutto vaccinarsi un po' in tutte le fasce d'età, in modo particolare nella fascia d'età dagli 11 ai 20 anni. Però insomma i casi di meningite ormai ci hanno abituato a non ragionare più sull'età, un po' a tutte le età purtroppo questo batterio colpisce e colpisce con grande virulenza, come purtroppo ha dimostrato anche quest'ultimo caso. La vostra campagna straordinaria di vaccinazione chi riguarda? È gratuita per tutti coloro che sono residenti nell'azienda Toscana Centro, che quindi abbraccia le province di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli, fino a 45 anni, e comunque gratuita anche nelle altre aziende sanitarie, quindi anche nella Nord e nella Sud. Bene, adesso ci lasciamo brevemente per una breve pausa. Intanto, fra i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, per esempio Luigi De Padova dice: ciao Roberta, non mi preoccupa tanto Kirill, il capo della Chiesa Ortodossa, ma gli ortodossi che lo seguono, nessuno dice niente, nessuno controbatte, ne parleremo tra pochissimo. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Avete sentito quindi il riassunto della giornata, poi abbiamo parlato ampiamente di politica, di questo dibattito sul referendum del 4 dicembre, sempre più acceso, addirittura Napolitano ha definito il confronto aberrante. Adesso vedo che Di Battista del Movimento 5 Stelle replica a Napolitano e dice è aberrante, è Napolitano, quindi c'è un botta e risposta continuo e con toni sempre più tesi, così possiamo dire. Ora però cambieremo argomento e prendo spunto da Lorenzo di Roma, che è al 349-238-6666, così come sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dove potete scrivere i vostri messaggi. Dice: le dichiarazioni del patriarca russo sono intrinsecamente loro stesse il preludio a leggi razziste di ghettizzazione, menti chiuse medievali ancora al giorno d'oggi. Ve l'avevo anticipato già prima anche nei titoli, adesso ne parleremo più della svolta del Papa naturalmente, ma poi diciamo come appendice anche questa dichiarazione del capo della Chiesa ortodossa. Prima di tutto però i fatti più importanti. La campagna referendaria, se vince il no rimane tutto com'è, dice Renzi. Grillo commenta, abbiamo di fronte dei serial killer. La manovra economica, 530 milioni per le assunzioni al sud, incentivate anche le trasformazioni, part-time l'apprendistato, verso modifiche dell'opzione donna e esodati. Aborto, svolta del Papa, i preti potranno per sempre assolvere le donne e i medici coinvolti. Francia, Sarkozy, grande sconfitto delle primarie del centrodestra, sorpresa stravince Fillon, e intanto è stato sventato un attentato, 7 gli arresti. Il ministro dell'interno Cazeneuve dice mai la minaccia terroristica è stata così elevata sul nostro territorio. Stati Uniti, la squadra di Trump è quasi pronta, ma il neopresidente si prende una pausa di riflessione per il giorno del ringraziamento. Arte, denuncia per il presidente ucraino Poroshenko per il mancato ritorno in Italia dei 17 quadri del Museo Veronese. L'ha presentato un avvocato. Il peccato di aborto potrà essere perdonato da ogni sacerdote senza più alcuna delega particolare. Il peccato di aborto è globale e quindi il perdono dal peccato di aborto è ugualmente onnicomprensivo, tocca a tutti coloro che sono attori di questo peccato. Avete sentito Monsignor Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, così ha spiegato questa iniziativa di Papa Francesco che in una sua nuova apertura, nella lettera apostolica intitolata Misericordia et Misera, pubblicata oggi, ce lo dirà tra poco il nostro vaticanista, conclusione del Giubileo Francesco, ha scritto questa lettera, ha stabilito che oggi, che da oggi e per sempre tutti i sacerdoti potranno assolvere in confessione i responsabili del peccato di aborto, sia la donna sia chi ne condivide la decisione. E dice: quanto avevo concesso limitatamente al periodo giubilare viene ora esteso nel tempo, nonostante qualsiasi cosa in contrario. Ora cerchiamo di capire la proporzione di questa svolta. Per esempio c'è Andrea da Udine che scrive: quella di Papa Francesco per l'aborto non è un'apertura ma una semplificazione, fino ad ora era il vescovo ad assolvere, adesso lo può fare un prete senza comunicare col suo vescovo. E così Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore: solo una semplificazione o è davvero un passo ulteriore di apertura? Ciao Roberto. Sì, è una semplificazione, nel senso, come diceva il tuo ascoltatore, è vero, i sacerdoti ad oggi potevano assolvere l'aborto, il peccato di aborto, però c'era appunto una procedura un po' più complicata, nel senso che un vescovo di ogni diocesi delega o lui stesso o delega qualcuno ad esaminare queste questioni, quindi un prete senza questa delega da solo non lo poteva fare. E da oggi poi lo potrà fare, naturalmente con tutti i normali crismi, stiamo parlando sempre di chi va a confessarsi, naturalmente, quindi chi ci crede, chi frequenta la chiesa, eccetera, i sacerdoti potranno farlo, nel senso che se un medico dice procurato un aborto, mi dia la soluzione che oggi pomeriggio ce n'ho un altro, ecco, questo no, nel senso che la confessione prevede un pentimento reale, ecco. Appurato quello, il sacerdote può assolvere e quindi, e questa è la cosa importante, decade la scomunica, perché c'è sempre la famosa scomunica di cui ogni tanto si parla anche come immagine, c'è, nel senso che chi procura aborto, o la donna, o il medico, o chi ne condivide, è automaticamente scomunicato, cioè non c'è bisogno di una dichiarazione, è una cosa che si chiama late sentenze, ipso facto, non so come dirtelo. E quindi questo però il prete può toglierla, lo potrà fare senza queste procedure. Infatti pensavo Carlo che da una parte sì, può essere semplicemente una semplificazione, ma il fatto che sia semplificato in questo modo significa anche che è più esteso, più facile, più diretto e quindi assolutamente, più, ecco, no? Qui spieghiamo tecnicamente com'è andata e questo è quello che dicevo prima, è un'enorme apertura, questo condivido, una svolta nel senso una grandissima atto di misericordia del Papa verso un mondo enorme di persone, che di donne in particolare, che avendo passato questo dramma nella loro vita, però a un certo punto volevano riavvicinarsi alla Chiesa ed era complicato, era tutta una questione, poi non tutti i preti sono d'accordo nel farlo e le procedure possono complicarsi molto, quindi è un fatto straordinariamente importante. Resta un peccato, come l'ha chiamato il Papa domenica nell'intervista a TV 2000, un orrendo crimine, resta questo fatto qua, però diciamo, non c'è un peccato che non può essere perdonato, dice il Papa. E questo è il tema, diciamo, della misericordia, che è, diciamo così, quindi questa è una svolta, ma è una svolta, diciamo, che aveva già iniziato con il Giubileo e che ora va a compimento in maniera stabile. E scrive per esempio Simone: al peggio non c'è fine, in Russia ci sono molti omofobi tra i preti e nel governo, e la Chiesa ortodossa ha trovato il suo baluardo antioccidentale nell'omofobia. Il Papa si muove un po' maldestramente in una Chiesa che nella contrarietà all'aborto ha trovato la sua identità nostrana. Ma per quanto riguarda invece, non so se vuoi commentare, Carlo, l'uscita patriarca ortodosso che ha detto le unioni gay sono come le leggi naziste. Allora lì c'è un tema nazionale. Devi sapere che la Chiesa, le Chiese ortodosse, e quella russa lo è ancora di più, è molto, diciamo, sì, nazionale, nazionalista, nel senso che è vicina ai governi e alle realtà. E come è noto, da alcuni anni la Russia di Putin ha una legislazione, credo di 2 anni fa, che in molto qualche restrittiva modo, nei confronti dei gay. Ecco, restrittiva, diciamo, usiamo un eufemismo, è liberticida, appunto, è persecutoria. Sì, persecutoria è la parola giusta. Ecco, sì, ma ecco, siamo sempre molto cauti, quindi è veramente terribile la situazione. Quindi il patriarca, che comunque, diciamo così, anche la Chiesa Cattolica non è che auspica le nozze omosessuali, questo non lo fa, però ha un atteggiamento di enormemente diverso. Diciamo, il Papa oggi non direbbe più che è uguale alle leggi naziste, no? Anche non forse non lo pensa neanche non nessuno. Credo che possa pensare. Cioè, forse qualche cattolico, qualche vescovo un po' così ultra magari lo pensa, però diciamo forse, ma non so neanche se più sia così. Sicuramente in tante parti del mondo questo non accade più. Quindi è ovvio che la Chiesa ortodossa ha questo atteggiamento, che però è anche molto nazionale, mentre la Chiesa cattolica, questo proprio è distante anni luce ormai da questo atteggiamento. Diciamo. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te. Ciao Carlo, buona Ciao. Serata. Viabilità. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie che io con voi, Roberta Giordano, vi ricordo adesso in pochi secondi, almeno le più importanti. Il Papa scrive nella lettera apostolica ai sacerdoti: potrete assolvere per sempre dal peccato dell'aborto le donne e anche i medici, ne abbiamo appena parlato, mentre il patriarca ortodosso Kirill dice i matrimoni gay sono come le leggi naziste. Poi la campagna del referendum che si infiamma sempre di più a 14 giorni dal voto, scontro tra Grillo e Renzi e Napolitano che dice è una sfida ormai aberrante. E poi in Francia sventato un attentato, 7 jihadisti arrestati, obiettivi Parigi e Marsiglia. Il ministro dell'Interno Cazeneuve dice la minaccia non è mai stata così alta. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24, da Silvia Bernardi. Oggi apriamo il dossier che si occupa delle relazioni con la Russia. In questi giorni a Bruxelles è in corso il forum Boris Nemtsov, voluto dal miliardario russo anti-Cremlino Khodorkovsky. L'obiettivo dell'incontro internazionale è quello di creare un nuovo tipo di relazioni tra Russia e Unione Europea, a partire da un dato. Il 70% della popolazione è a favore del rapido ripristino delle relazioni con l'Europa. Un risultato, dicono, difficilmente raggiungibile a livello del Cremlino, interessato solo a prevenire un cambio di potere. Al contrario, a livello della società civile, la ripresa dei rapporti fra le due potenze è non solo possibile, ma di importanza cruciale. I nostri cittadini, hanno detto al forum, non vogliono questa posizione isolazionista e militarista da parte del governo. Ora, con il neopresidente Trump, ci sarà un cambiamento importante per l'Unione Europea e il rapporto con la Russia. Trump ha un atteggiamento più morbido che potrebbe avere ricadute sull'Unione Europea e questo andrebbe molto bene soprattutto all'Italia, che ha chiesto varie volte di rivedere le sanzioni verso la Russia. Ne parliamo con l'europarlamentare Stefano Maullu della delegazione con i rapporti tra UE e Russia, che saluto e al quale chiedo, da un punto di vista delle relazioni internazionali, cosa cambia per l'asse Europa-Russia con la vittoria di Trump? Beh, innanzitutto credo che ci sia un approccio decisamente più pragmatico e meno ideologico. Donald Trump ha dimostrato di voler cambiare rotta rispetto a ciò che Obama ha fatto negli ultimi 10 anni, con i risultati disastrosi che abbiamo potuto vedere sia in Medio Oriente sia in Europa, soprattutto nei rapporti tra la NATO e la Federazione Russa. La NATO, che è un'alleanza militare, si è allargata in una maniera, io credo, poco prudente, soprattutto per quello che è l'atteggiamento dei grandi paesi europei, e in particolare quelli dell'est, che hanno sempre avuto un atteggiamento revanchistico nei confronti della Russia. E d'altro canto non ci si poteva che aspettare una reazione russa molto forte, così come è accaduto appunto in Ucraina e in Crimea, tenendo conto poi anche della capacità di intervento e del tempismo politico che la Russia ha messo in campo in Medio Oriente, creando non poche difficoltà allo Stato islamico e avviando di fatto quella che è stata la rivincita dell'Occidente verso questo fenomeno che tanti problemi ci ha creato negli ultimi anni. Questo cambiamento di scenario potrebbe avere una ricaduta positiva per l'Italia, che ha chiesto più volte di rivedere le sanzioni verso la Russia? Ma io credo senz'altro di sì, soprattutto se si riuscirà a contenere questo atteggiamento spiccatamente germanico che ormai imperversa in Unione Europea e che spesso ha dato luogo a porzioni di ambiguità da parte della Germania. Da una parte si sono sollecitate le sanzioni, dall'altra parte si è pensato a dire che il Nord Stream, il famoso gasdotto, doveva essere completato. Penso anche che da questo punto di vista l'Italia debba riacquistare centralità rispetto a questo storico ruolo tra Oriente e Occidente. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E ora in Francia, dove ad aprile si vota per le presidenziali, uno degli appuntamenti più importanti per l'Europa 2017, e appunto in vista di questa elezione del prossimo presidente francese, si sono svolte ieri le primarie del centrodestra in Francia e pare sia uscito vittorioso François Fillon. Marco Mussanet del Sole 24 Ore da Parigi. Buonasera a voi. Ciao Marco. In effetti con un risultato sorpresa che ha stupito tutti, ma gli stessi sostenitori di Fillon, i quali certo pensavano a un possibile passaggio del primo turno dell'ex premier, quindi l'ipotesi che andasse al ballottaggio domenica prossima, ma certo una vittoria così netta con il 44% al primo turno non se l'aspettava nessuno. C'è un secondo turno però, perché allora Sarkozy è fuori dalla corsa, ma c'è ancora Juppé. Sarkozy è fuori perché è arrivato terzo e quindi ci sarà il ballottaggio domenica prossima tra appunto Fillon e un altro ex premier, cioè Alain Juppé, il sindaco di Bordeaux, e saranno loro due a vedersela domenica prossima con Fillon, almeno sulla carta, favorito, largamente in vantaggio. Senti Marco, riesci a dirci in sintesi che personaggio è Fillon, visto che fuori dalla Francia non so in quanti lo conoscano? No, infatti lo conoscono sicuramente in pochi, perché è una sorta di uomo dell'ombra, molto discreto, molto appartato, non ama le esibizioni, non ama le telecamere. Senti, è un uomo rassicurante, tranquillo ma fermo, è un conservatore, rappresentante, un tipico rappresentante della destra conservatrice di provincia, è nato a Le Mans. È riuscito probabilmente a imporre, anche oltre al proprio programma, imporre appunto uno stile. Da una parte c'era un Juppé piuttosto ottimista sulla situazione della Francia, che probabilmente un pezzo dell'elettorato non è piaciuto, e poi con uno sguardo rivolto al centro e anche alla sinistra. Dall'altra parte un Sarkozy invece molto aggressivo, molto attento soprattutto all'estrema destra. Fillon è riuscito con il suo stile, con il suo modo di porsi, a ritagliarsi una posizione centrale tra i due avversari più quotati e alla fine a portare a casa il risultato. Chiaro, quindi prima di prefigurarci gli scenari aspettiamo il prossimo turno e vediamo se effettivamente Fillon avrà vinto la partita almeno nel centrodestra. Grazie Marco Mussanet da Parigi. A voi. Ciao Marco. E noi ci riaggiorniamo brevemente alle 22:00.